2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 17 gennaio 2009, benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Come sempre vi ringraziamo per la vostra attenzione, anche per le email, i messaggi che ci scrivete. Il nostro indirizzo digitale è 2024@radio24.it, quindi 2024@radio24.it. Vi ricordo che il nostro programma può essere ascoltato anche su internet, naturalmente in diretta attraverso il nostro sito internet, ma preferiamo invitarvi ad abbonarvi gratuitamente al servizio podcast. Esiste una pagina dedicata sul nostro sito internet proprio alla voce podcast, oppure potete anche arrivarci tramite la pagina di 2024 all'interno di www.radio24.it. Se non trovate la strada giusta, beh, scriveteci una email e vi indicheremo noi appunto la strada. Questa settimana, all'inizio della nostra puntata, tra poco parleremo della diffusione della rete internet. Pensiamo che sia fondamentale e importante, sia una delle sfide del futuro, degli obiettivi anche per il nostro paese, è quello di estendere la disponibilità di rete internet in qualsiasi modo. Naturalmente il cavo è da preferire, ma non c'è solo la tecnologia via cavo ADSL o via fibra ottica, ci sono tante altre modalità e tra poco parleremo di questa alternativa offerta dalle tecnologie wireless senza fili. Alcune notizie della settimana, tra poco parleremo sia di Yahoo che di Apple, ci sono alcune notizie interessanti, ma prima di tutto parliamo di musica. La Federazione Internazionale dell'Industria Discografica ha pubblicato da 3 giorni il rapporto che descrive l'andamento della musica digitale nel mondo, un settore che nel 2008 è cresciuto del 25% per un valore complessivo di 3,7 miliardi di dollari. Questi numeri dicono poco, dicono che appunto cresce il settore, ma stiamo parlando di un settore fondamentalmente ancora nuovo, non ancora maturo, quindi una crescita del 25% ha un senso. Nel 2008 sono state scaricate 1 miliardo e 400 mila canzoni e in tutto il mondo la vendita via internet o attraverso le altre piattaforme digitali conta per il 20% sull'intero settore della musica. I ricavi dell'industria dei giochi, ad esempio, attraverso i canali digitali, internet in primis, sono invece pari al 35%, quindi i giochi hanno un peso su internet maggiore sul settore generale dei giochi. Internet vale solo il 4% invece per i quotidiani e per i film. In questi settori, insomma, la strada è ancora molto lunga e complessa. Su tutto ciò c'è da considerare anche che, secondo il rapporto appunto dell'industria discografica mondiale, il 95% dei download di musica attraverso internet è ancora illegale, pensate, 95 su 100. Ed è anche per questo motivo che gli sforzi dell'industria saranno concentrati nei prossimi anni a trovare una soluzione al problema, che tra l'altro in Italia è più pesante rispetto ad altri paesi. È stata abbandonata, diciamo così, la strada delle mega cause che finora hanno raccolto pochi risultati. In futuro si cercherà sempre più di coinvolgere i provider, cioè i fornitori d'accesso ad internet. In pratica si tenterà di fare in questo modo: se scarichi musica illegalmente ti tagliamo la connessione. Quindi è molto semplice da capire. La strada è sicuramente molto complessa perché tocca parecchi soggetti, ma soprattutto tocca aspetti legati alla privacy, ma sicuramente è un sistema che potrebbe essere molto efficace, come dicevo, molto semplice da capire. C'è un altro dato interessante: leggendo il rapporto, la parola Italia non c'è proprio alcun cenno al nostro paese. C'è un riferimento ad una società italiana, a Dada, che sicuramente ha trovato una strada per aggredire questo mercato in maniera molto interessante, non solo in Italia ma anche all'estero. C'è un riferimento al Parlamento italiano, a un'intenzione almeno così del Parlamento italiano per andare verso una legislazione un po' più stringente per bloccare il fenomeno della pirateria, ma il dato che emerge è che, oppure il dato che non emerge, è che il nostro paese anche da questo punto di vista vede la fila dalle posizioni di coda. In testa ai paesi dove l'attività digitale dell'industria discografica è maggiore ci sono gli Stati Uniti, con un valore del 39%, il Giappone 19%, Gran Bretagna 16%, poi due paesi affini per tanti versi all'Italia, confinanti, almeno uno confinante, la Francia il 12% e la Germania il 9%, quindi siamo noi ad una percentuale ancora più bassa rispetto a questi valori. C'è una buona notizia per Yahoo e una cattiva per Apple. Iniziamo dal motore di ricerca numero 2 al mondo, senza dimenticare però che Yahoo è invece il sito internet più visitato al mondo. Spesso la concorrenza di Google nel settore della ricerca mette in ombra le tante cose positive che Yahoo fa ancora nel mondo. Pensate ad esempio a servizi come Yahoo Answers, ci si trovano un sacco di informazioni, un sacco di risposte a dubbi che a volte vengono e si va su un motore di ricerca per fare la domanda e magari la risposta si trova dalla rete, da chi in rete mette risposte su Yahoo Answers. Dunque, Yahoo da pochi giorni, e questa è la notizia, ha un nuovo amministratore delegato. È una signora di 60 anni, uno potrebbe pensare che alla guida di un motore di ricerca, alla guida di un grande portale internet, vada un giovane rampante. Invece questa è una signora che conosce molto bene il settore della tecnologia, forse non quello di internet, una signora di 60 anni che si chiama Carol Bartz, che per 14 anni ha guidato Autodesk, forse ai più non è un'azienda molto conosciuta, comunque un'azienda nel settore famosa soprattutto per il software AutoCAD e una miriade di altri software per la progettazione, per il disegno tridimensionale, per la creazione di grandi progetti. Bene, la Bartz ha lavorato però anche in altre aziende, alla Digital, alla 3M, alla Sun, insomma è conosciuta e rispettata nell'ambiente e ha anche buoni rapporti con Microsoft. Ed è proprio sulle relazioni tra Yahoo e Microsoft che ora sono puntati gli occhi. Microsoft, ricorderete, voleva lo scorso anno acquistare Yahoo per irrobustire le proprie attività online, che finora sono, diciamolo, un fallimento. Jerry Yang, cofondatore di Yahoo e amministratore delegato, si era opposto con molta forza a questa vendita a Microsoft ed è anche per questo motivo che a novembre era stato costretto alle dimissioni. Quindi da un paio di mesi i vertici dell'azienda si erano messi alla ricerca di un nuovo amministratore delegato ed è arrivato il nome di Carol Bartz. Ora vedremo quali saranno le mosse della signora Bartz, che guadagnerà $1 milione all'anno. Dicevo, c'è una cattiva notizia per Apple. Questa settimana Steve Jobs, l'amministratore delegato della società, ha annunciato il suo ritiro temporaneo dall'azienda. La malattia che lo ha colpito è, ha scritto Jobs in una email, è più grave del previsto. Finora Jobs ha parlato di squilibrio ormonale, aveva detto all'inizio di gennaio che la malattia sarebbe stata facile da curare, in realtà le cose non stanno così. Sulla sua salute in rete si fanno le più svariate ipotesi, prima fra tutte il ritorno del tumore al pancreas che lo aveva colpito 4 anni fa. Ora molti parlano di una Apple che si prepara all'era post-Jobs e molti attendono di capire quale direzione prenderà questa azienda che negli ultimi 10 anni è rinata grazie a Steve Jobs e le cui sorti, almeno questa è l'opinione di molti, non solo degli esperti, è strettamente legata alle idee di Steve Jobs. Il rapporto è così stretto che in molti hanno polemizzato con la società per la reticenza con cui sono state diffuse le notizie sullo stato di salute di Steve Jobs e ora c'è chi sostiene, ma forse questo è solo per scrivere qualche cosa in rete, comunque c'è chi sostiene che Apple rischi di essere citata in tribunale dagli investitori preoccupati dell'assenza di Steve Jobs alla guida. C'è però da dire che la legge negli Stati Uniti non dice chiaramente se una società sia obbligata a rivelare informazioni sulla salute di un suo dirigente. Bene, vedremo come si trasformerà questa vicenda interessante e anche preoccupante da un certo punto di vista, almeno per quanto riguarda la salute di Steve Jobs, che fa parte della storia non solo dell'Apple ma dell'informatica. All'inizio della nostra trasmissione ho detto che una delle sfide sicuramente per il nostro paese, che parte da posizioni un po' più arretrate rispetto ad altri, ma un po' di tutto il mondo occidentale e devo dire non solo del mondo occidentale, è quello di estendere sempre più la rete internet. L'obiettivo è forse quello di avere a disposizione internet ovunque o comunque in buona parte del paese a prezzi ragionevoli. e naturalmente anche accrescere la cultura della rete. Oggi vogliamo parlare di una esperienza, una piccola esperienza ma significativa. Abbiamo già parlato di tecnologie analoghe qualche settimana fa, lo vogliamo fare quando c'è l'occasione per raccontare sia la storia di un'azienda sia un'esperienza interessante appunto per la diffusione della rete internet. Saluto Ezio Peri, che è uno dei soci di Wi-Fi Communication. Siamo in Toscana. Peri, benvenuto a 2024. Grazie a voi e saluto a tutti gli ascoltatori. Dicevo, siamo in Toscana, voi operate in una zona della Toscana dove in alcuni casi esiste la DSL, in altri no. Beh, innanzitutto, che cosa fate? Beh, noi facciamo servizi WISP, quindi Wireless Internet Service Provider. Quindi siete un provider e fornite internet ai consumatori o alle aziende? Esattamente, e portiamo la banda larga dove questa non c'è, dove non c'è la DSL. In alcuni casi forniamo i nostri servizi anche già dove c'è la DSL e siamo competitivi con il normale filo. Voi avete nel nome, nella ragione sociale, la parola Wi-Fi. Molti nostri ascoltatori sanno che cos'è il Wi-Fi, questa è una tecnologia piuttosto conosciuta, piuttosto diffusa, ma per portare internet dove internet non c'è o comunque non c'era fino a qualche tempo fa, voi usate una tecnologia di cui a 2024, gli ascoltatori ricorderanno, abbiamo già parlato, forse poco conosciuta ma molto efficiente, forse anche efficace. È la tecnologia Hyperlan, che funziona invece del normale Wi-Fi a 2,4 GHz a 5 GHz. È però una delle due bande libere del Wi-Fi e quindi noi abbiamo tenuto questa denominazione nella nostra ragione sociale. Quindi per il consumatore finale, che cosa significa avere la possibilità di poter sfruttare sul territorio italiano questa tecnologia e poterla portare nelle case poi dei consumatori o nelle aziende? Beh, significa semplicemente mettere una piccola antenna sul tetto, sul terrazzo e avere a disposizione fino a 4 megabit secondo di banda disponibile. Scendendo nel particolare, faccio proprio il cliente finale. Quanto costa un servizio di questo tipo? Beh, i nostri servizi partono dalla cifra di 25 euro mese, quindi sono del tutto abbordabili e del tutto competitivi con quella che è la normale DSL fornita su filo. Quindi diciamo che l'esperienza per chi vuole navigare su internet è quella appunto del cavo tradizionale, del cavo di rame, la DSL? Assolutamente sì, anzi in alcuni casi siamo competitivi anche come velocità e come banda con i normali servizi forniti dalle più grandi aziende. Dunque, voi dove operate? Io siete in Toscana, ma non in tutta la Toscana siete. Ma noi siamo nella parte nord della Toscana, quindi le province di Massa Carrara principalmente, in particolare una vallata che si chiama Lunigiana. Noi abbiamo una sede ad Aulla, una sede a Pontremoli e poi arriviamo anche nelle province di Parma, abbiamo una sede a Borgo Valditaro. Siamo un po' a cavallo degli Appennini, quindi fra la Liguria e la Toscana. Arriviamo anche nella provincia di Reggio Emilia, di Lucca e di La Spezia. E abbiamo in questo momento circa 1000 clienti, molti sono privati, abbiamo anche diverse aziende, in particolare segnalo gli agriturismo piuttosto che gli alberghi, i bar, che oltretutto danno anche servizio tramite delle scratch card con il wifi ai loro clienti direttamente, che possono utilizzarlo con il notebook o con addirittura un iPhone. Sì, quindi io vado in vacanza, magari passo qualche giorno in un agriturismo, posso collegarmi alla rete senza problemi. Esattamente, insomma. In questo momento la domanda è molto forte. Per questo sì, tipo. Sì, effettivamente insomma, uno è abituato a utilizzare internet e quando non ce l'ha c'è chi dice... Per fortuna non ce l'ho quando sono in vacanza, c'è chi dice invece purtroppo, invece, anzi in alcuni casi questo potrebbe essere un fattore competitivo per gli agriturismi, oppure per gli alberghi che ancora non hanno forse capito il valore di una proposta di questo genere, di un servizio da aggiungere ai tanti, insomma non c'è solo la colazione ma anche forse internet. Per qualsiasi motivo, desiderio, suggerimento potete utilizzare la nostra email 2024@radio24.it. Oppure anche il nostro sito internet, dove trovate tutti i nostri riferimenti per scriverci. In questa puntata stiamo parlando, in questa prima parte, stiamo parlando della tecnologia senza fili in generale, le tecnologie senza fili che ci permettono di portare internet dove oggi internet non è presente via cavo. Abbiamo detto più volte che certo è da preferire il cavo per le performance superiori alle reti wireless, che i gestori di telefonia mobile dicano, ma questo insomma è un dato assodato e conosciuto. Però purtroppo il cavo, sappiamo, insomma, la DSL, il doppino di rame e men che meno la fibra ottica fatica a diffondersi nel paese, quindi ci sono zone dove internet è possibile portarlo solamente grazie a queste tecnologie, per fortuna che esistano. Ma al di là delle tecnologie wireless utilizzate per le reti di telefonia cellulare, esistono altre tecnologie molto interessanti, forse più interessanti. Una di queste è la Hyperlan. È con noi Ezio Peri, che tra l'altro ha anche un passato nel mondo della telefonia mobile, che lavora all'interno di Wi-Fi Communication. Siamo in Toscana, in Lunigiana. Questa è sicuramente una piccola esperienza, ma significativa di quanto una tecnologia può fare. E dico io, certamente gli operatori fanno questo per business, per ricavare lo stipendio per la fine del mese, ma alcune iniziative, e questa è una delle tante, hanno anche un valore sociale, proprio per il motivo di cui dicevo all'inizio della nostra trasmissione, cioè portare internet dove oggi non c'è, magari ad un prezzo ragionevole. Dunque, Peri, vorrei capire anche quali possibilità ci sono di estendere questo servizio, perché voi avete coperto una valle, ma ci sono altre valli vicine, o comunque altre zone dove internet non c'è e dove c'è comunque, seppur poca, c'è domanda. Anzitutto colgo questa tua osservazione per dire che un'operazione, un'azienda come questa nasce anzitutto dalla passione. Nasce dalla passione di chi l'ha costruita, partendo dall'esperienza di radioamatore, quindi mano a mano servizio alla protezione civile, eccetera, e quindi è diventato poi naturale dare dei servizi interessanti che sono diventati anche per il pubblico. Però noi diamo servizio al 118, ai gruppi di volontari che forniscono servizi quindi in zona, agli ospedali, quindi facciamo anche da questo punto di vista alcune attività che sono di tipo sociale. Poi c'è anche un elemento di aggregazione, quindi sicuramente il fatto di creare degli hotspot nelle piazze dei paesi significa ridare un po' di vita anche ai paesi. E dal nostro punto di vista sicuramente facciamo questo anche per business, perché bisogna, dedicandogli il tempo, avere anche un ritorno. Quindi stiamo realizzando questi servizi in questo momento in queste aree, ma abbiamo in conto un consorzio con altre piccole realtà come le nostre, alcune che sono nel nord, quindi parliamo di Bra piuttosto che di Genova, piuttosto che altre zone della Toscana, fino anche ad Ascoli, altre zone anche a Cagliari, eccetera. Quindi l'idea è quella di avere comunque un raggruppamento di piccole aziende che possano dare, come già stiamo facendo, anche dei servizi in roaming, per cui uno si trova in vacanza in un altro punto e può benissimo usufruire, senza spendere nulla, essendo già abbonato, dei servizi che dà un altro operatore. Quindi in questo caso tu parli della connessione Wi-Fi, cioè un conto è il collegamento in Hyperlan che voi date direttamente alla casa di un vostro cliente, io mi collego così come avessi la DSL. Un altro conto è se io vado in una zona coperta da voi con la tecnologia Wi-Fi, alla quale io posso collegarmi direttamente. Esatto, questo sugli hotspot con un portatile oppure con un iPhone o un altro telefono Wi-Fi. Telefono, sì. Mi autentico con una password che io ho e posso entrare e navigare liberamente. Una domanda relativa al rapporto che c'è con la pubblica amministrazione. Che tipo di ruolo ha, almeno nella vostra zona, per quanto riguarda la vostra esperienza? Ma noi abbiamo fra i nostri clienti molte realtà locali, appunto dagli ospedali, alle scuole, piuttosto che comuni, quindi diamo già servizi, perché non diamo soltanto servizi di banda larga, ma anche di videosorveglianza e di VoIP, e quindi stiamo già fornendo questo tipo di cose. Devo dire che non c'è stato un grande supporto da parte della pubblica amministrazione nei confronti di queste piccole realtà, che potevano essere invece valorizzate. Sì, quindi mi sembra di capire che anche nella vostra zona la pubblica amministrazione fatica a capire quanto è importante avere internet. Sì, lo fa più come cliente, diciamo nei casi in cui gli è indispensabile, ma non vede in questa azione di queste piccole società uno strumento di sviluppo del territorio. Sì. Che cosa pensate voi, che cosa pensa Ezio Peri del WiMAX? Visto che stiamo parlando comunque di una realtà interessante ma piccola come la vostra, in un territorio piccolo, mentre il WiMAX abbiamo assistito a una gara importante e ricordo, come ha detto un nostro ospite recentemente, che il Ministero ha fatto tanta pubblicità di questa gara dicendo abbiamo guadagnato tanti soldi, ma ricordando che poi questi soldi li pagano i cittadini alla fine. Quindi, però, a parte chiusa la parentesi, che cosa ne pensate voi? Ma ovviamente il WiMAX è una tecnologia importante che nei prossimi anni avrà un suo sviluppo e quindi è una realtà di cui tenere conto. Sono altresì convinto che sia difficile per chiunque sviluppare una rete di distribuzione sul territorio così raffinata. Noi ad esempio nel nostro piccolo abbiamo più di 50 antenne radiobase e quindi anche arrivando con una mega antenna WiMAX che copre il territorio rimangono una serie di zone non coperte. Quindi dal mio punto di vista ritengo ci sia la possibilità di una convivenza per un lungo periodo di reti, quella WiMAX che porta la banda alle reti più piccole che fanno una distribuzione. Poi c'è tutto un discorso di servizi, quindi bisognerà vedere quali servizi saranno resi disponibili sul WiMAX. Sì. È sicuramente un'opportunità interessante. C'è da vedere come la sapranno sviluppare i soggetti che hanno preso le licenze. Voi pensate che ci possano essere accordi ai quali eventualmente partecipare anche in qualità di Wi-Fi communication, cioè accordi di roaming oppure scambio di frequenze, scambio di tecnologie, eccetera? Io ritengo che la prima problematica che avranno i signori che dovranno sviluppare le reti WiMAX sia di tipo commerciale. Quindi al di là del mettere le antenne, che è un problema tecnico e che si è visto risolvere nei vari anni per le varie tecnologie, il problema principale è quello commerciale, quindi un aiuto in termini commerciali, quindi un accordo di collaborazione per arrivare e portare banda ai clienti andrà trovato. Faccio altre due domande sulla tecnologia che voi offrite ai vostri clienti, che è una tecnologia che altri, come tu hai ricordato, forniscono in altre zone d'Italia. Che tipo di performance posso ottenere? Quindi io da casa sono abituato alle pubblicità delle ADSL che mi dicono 7 mega, 8 mega, 20 mega, poi sappiamo che queste velocità non sono vere, non sono raggiunte, a meno che siamo particolarmente fortunati. Per quanto riguarda la tecnologia in sé, poi ogni servizio, ogni zona insomma avrà le sue problematiche. Ma diciamo che la tecnologia Hyperlan, nelle sue varianti, arriva a gestire velocità di banda dell'ordine 4-8 megabit secondo bidirezionali e questo non è da sottovalutare, sì, perché il link diretto che viene fatto da casa o dall'azienda verso il gestore va effettivamente a questa velocità. Poi ovviamente dipende dalla velocità che mi mette a disposizione il gestore verso la rete internet. Però in termini di tecnologia è già più che sufficiente ed estremamente interessante a dare dei servizi di ottima qualità. Sì. Prima di entrare in studio tu mi dicevi che non dico che avete un cattivo rapporto con il peer-to-peer, comunque guardate questo fenomeno che per molti versi è un fenomeno anche, se vogliamo, vergognoso, perché insomma ormai diamo per scontato che esista, ma non dovrebbe avere queste dimensioni. Voi come lo trattate, come logica di rapporto avete? Ma noi abbiamo sviluppato ovviamente dei sistemi di traffic shaping che ci permettono ovviamente di gestire la tipologia di traffico e in funzione del carico che noi abbiamo sulla rete, e quindi tipicamente giornaliero o notturno, possiamo suddividere e dare maggiore spazio o minor spazio alla parte peer-to-peer, che al di là della quantità di banda ha il difetto di aprire tantissime connessioni e quindi consumare tantissima potenza sui server e quindi in alcuni casi anche di mettere in crisi la rete. Quindi la gestione che noi dichiariamo ai nostri clienti è che non privilegiamo il peer-to-peer, ma che i nostri servizi sono più orientati ovviamente alla navigazione, al scarico di file, eccetera. Il peer-to-peer viene aperto di notte e quindi è possibile usufruire anche di questa cosa, ma senza limitare l'utilizzo da parte degli altri clienti. Tipicamente, ad esempio, per le aziende, per fare traffico di qualità durante il giorno quando si lavora diventa un problema. Certo, è che posso mettermi in coda di uno che sta scaricando una canzone o un film, magari legalmente. Se io fossi un ascoltatore di 2024, in questo momento mi trovassi o comunque abitassi in un paese dove non esiste la DSL, non esiste nulla, quindi o in qualche modo uso i sistemi di telefonia mobile, il 3G, oppure addirittura il satellite, ma insomma sappiamo che qua siamo ai limiti. Quanti sono i clienti minimi che voi richiedete per portare l'antenna in un territorio? Sì, beh, diciamo una decina di clienti. Facciamo questa cosa in alcuni comuni addirittura abbiamo portato le antenne senza avere clienti. Quindi sulla fiducia che poi si sarebbe sviluppato il mercato. Molto bene, io ringrazio Ezio Peri per essere stato con noi, buon lavoro, in bocca al lupo insomma per questa realtà interessante per il territorio, insomma non solo per il territorio. A presto. Grazie molte, salute a tutti. Qualcuno sa che cosa sono i geolocalizzatori? Ne parliamo tra poco a 2024. Vi ricordo che il nostro programma va in onda il sabato nel pomeriggio di Radio 24 tra le 15.30 e le 16.30, oppure ci trovate online. Sul nostro sito internet trovate tutte le informazioni per scaricare i nostri file. Se non trovate la strada giusta, beh, scriveteci una email a 2024@radio24.it. Vi consiglio sempre di abbonarvi gratuitamente al servizio podcast. Ci sono alcuni software che permettono una facile gestione dei quelli che si chiamano feed podcast, ma senza utilizzare un termine così complesso, potete utilizzare questi software per scaricare settimana dopo settimana, anche in maniera automatica, il file della nostra trasmissione. Quando esiste un aggiornamento, quindi quando il file viene aggiornato dai nostri tecnici, il software lo scarica automaticamente, quindi ve lo trovate sul vostro computer, poi potete utilizzarlo sul lettore di file MP3 oppure masterizzare un CD, metterlo su una chiavetta USB, insomma fare quello che desiderate, ascoltarlo quando e dove volete. Dunque, dicevamo dei geolocalizzatori, che cosa sono e a quale tecnologia fanno riferimento? Beh, quando si parla di geolocalizzazione, spesso in attesa che arrivi il sistema europeo Galileo, ma questo arriverà fra 3-4 anni, visto che non si utilizza il GLONASS russo, tutti utilizzano il GPS americano, quindi la tecnologia di cui parleremo tra poco è una tecnologia basata su sistemi di geolocalizzazione GPS. E che cosa sono i geolocalizzatori? Ne parliamo con Simone Zanardi dal laboratorio di PC Professionale, uno degli ingegneri più attivi negli ultimi tempi, perché lo abbiamo chiamato spesso a raccontarci alcune delle esperienze che ha fatto. Simone, bentornato a 2024. Ciao Enrico, grazie mille. Prima di chiederti che cosa sono i geolocalizzatori, vorrei chiederti perché parliamo proprio in questo periodo di geolocalizzatori. Anche tu recentemente su PC Professionale ti sei occupato, hai provato sul campo una serie di prodotti. Dicevo che questa è una tecnologia piuttosto consolidata, non stiamo parlando di una novità assoluta. Forse il modo con cui viene concepita e utilizzata questa tecnologia sta un po' cambiando. Sì, diciamo che, come tu giustamente dicevi, il geolocalizzatore in sé si basa sulla tecnologia GPS, che è una tecnologia che ormai esiste da anni, è matura anche in ambito civile da diverso tempo. Il geolocalizzatore sta esplodendo sul mercato in questi ultimi mesi perché si occupa non come il nostro navigatore che usiamo in auto di indicarci la strada, serve per funzioni più particolari, per segnalare emergenze, ad esempio. Se noi ci troviamo in situazione di emergenza, possiamo usare il geolocalizzatore per farci trovare da qualcuno che ci aiuti, per tracciare la nostra posizione e quindi verificare i percorsi che noi facciamo, per turismo, ad esempio. E può essere anche utilizzato per controllare dove sono i nostri cari. Quindi ne parliamo perché, diciamo, sta avendo un successo di mercato. Assolutamente. Sembra strano e paradossale, noi già da molto tempo parliamo, e uno dei temi che viene spesso dibattuto quando si parla di tecnologia è quello dell'integrazione, della convergenza. Qua stiamo parlando di un prodotto che è tutt'altro che convergente, integrato con altri, cioè proprio una scatola che fa fondamentalmente una cosa.

E così noi concludiamo questa puntata di 2024. Grazie come sempre per la vostra attenzione, per l'ascolto. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo la prossima settimana, sempre il sabato nel pomeriggio di Radio 24. You are disconnected.